Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, abbiamo il playoff dalle nostre parti, come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti stanno per cominciare, da noi invece sappiamo già, dopo il turno infrasettimanale, che cosa, chi ci andrà ai playoff. Resta da definire il ranking, quindi resta da definire il tabellone, è poco altro, con Casale Monferrato che è ufficialmente retrocessa nell'ultima giornata, nell'ultimo turno infrasettimanale, con Varese che, vincendo a Treviso, i playoff se li è praticamente messi in tasca. Si tratta di definire chi incontra chi, a questo serviranno le ultime tre giornate di campionato. Intanto negli Stati Uniti, come avrete visto tante volte e letto negli ultimi giorni, i playoff, i Lakers li inizieranno senza un giocatore importante, che può anche cambiare nome, magari può anche cambiare pettinatura, può farsi fare una plastica facciale, però la testa non la può cambiare. Metta World Peace o Ron Artest si è beccato 7 sacrosante giornate di squalifica per la gomitata pazzesca ad Harden della settimana scorsa. Accoppiamenti dunque, playoff negli Stati Uniti. Intanto vi invito a partecipare al nostro gioco, 800-24-00-24 è il numero verde, magari a parlare anche di questa griglia di playoff che offre un paio di confronti suggestivi, e ne offre uno che è quello tra, a mio parere, tra Boston Celtics e Atlanta Hawks, che è di assoluto livello. I Bulls, Chicago Bulls, che hanno chiuso con il miglior record insieme a San Antonio. Attenti a San Antonio, perché l'altra volta della serrata, l'altra volta della stagione ridotta, San Antonio riuscì a mettere le mani sul titolo. Giocava ancora Robinson, era un'altra squadra, Tim Duncan allora MVP, era un giocatore inarrivabile. Oggi è un'altra edizione di San Antonio, reimpastata e ricostruita, però come ha detto questa breve stagione regolare, Greg Popovich ha fatto un grande lavoro. Dunque, al primo turno Chicago-Philadelphia, con i Bulls che hanno un miglior record insieme a San Antonio, quindi Heat-Knicks, quindi LeBron contro Carmelo Anthony contro i New York Knicks, e sarà, insomma, è una sfida suggestiva, ma a mio parere totalmente chiusa. I Pacers, che sono arrivati terzi ad Ovest, forse la più grande sorpresa dell'anno, incontreranno i Magic. Dall'altra parte gli Spurs incontrano gli Utah Jazz, che non mi sembrano un ostacolo particolarmente elevato, e quindi Thunder, Oklahoma City contro i Dallas Mavericks, e questa è una serie, perdonatemi, di altissimo livello, la migliore io credo, insieme a quella che vedremo tra Boston e Atlanta. I Lakers incontrano Danilo Gallinari, e lì attenzione, perché potrebbe aprirsi il primo grande confronto sul tabellone, cioè Thunder-Lakers in semifinale di conference. Sarebbe già una cosa da scintille, anche se dei Lakers fino adesso non abbiamo ancora visto il vero volto, forse non l'ha visto, non l'ha capito nemmeno Ettore Messina che li allena. Grizzlies Clippers ha una favorita d'obbligo, che è la squadra di Los Angeles, a mio parere, anche se il record migliore ce l'hanno i Grizzlies. Per quanto riguarda invece il nostro campionato, dopo il turno infrasettimanale abbiamo, ma guardate un po' che sorpresa, Siena che vincendo a Pesaro ieri ha, insomma, ufficializzato, ha messo definitivamente le mani sulla stagione regolare con 3 turni di anticipo, 3 turni che, insomma, serviranno ad ingannare il tempo fino al 17 di maggio, come si scrive anche oggi sulla Gazzetta dello Sport, in attesa di capire quale sarà, chi incontrerà chi. Siena ha vinto la stagione regolare, Cantù e Milano proseguono la loro stagione a braccetto, ma non dimentichiamo che Cantù ha il vantaggio dei confronti diretti. Quindi Pesaro, che ha perso in casa con Siena 36 punti, insieme a Sassari, Bologna e Venezia 34, e da Bologna arriva una notizia importante, perché praticamente fuori tempo è stato per le nostre cose, per le cose del basket, è stato già stato confermato Alessandro Finelli per la prossima stagione. Bologna e Venezia 34, Varese, cui manca solo un piccolo cavillo di classifica per garantirsi comunque l'accesso nei playoff, Varese a 30 punti, chi resta fuori? Roma che perde con Milano, ma soprattutto Roma che ha grandissime incertezze sul suo futuro, Roma insieme a molte altre, perché non dimentichiamolo che questo è un campionato in cui non vale per Roma ma vale per altre, spesso si è giocato con carte un po' truccate. Roma 26 punti insieme all'incredibile Cremona di Attilio Caia, e oggi mi toccherà, voi sapete che è mio amico concittadino, però toccherà fargli complimenti in diretta. Roma, Cremona e Avellino 26 punti, Caserta, Biella, Treviso 24, Teramo, Montegranaro 22, tutte salve, e Casale chiude con 12 punti, già matematicamente retrocessa. Parleremo anche di Teramo nella puntata di oggi. Io ho sotto gli occhi uno scritto di Oscar Eleni in una sua rubrica su un sito internet che vi invito anche a vedere, Daily Basket, l'artiglio dell'orso di Oscar Eleni, che scrive tra le altre cose a proposito dei discorsi che stavo facendo. Teramo, i ramagli a Teramo dopo aver vinto l'ultima partita che ha garantito la certezza della salvezza. Scrive Oscar Eleni, il ramagli salvifico chiede a mani giunte una preghiera cittadina per salvare la società nel giorno che ha dato la salvezza sicura. E poi, continua Oscar Eleni, andate a guardare le ultime righe di ogni cronaca di questo mare d'acqua salata pieno di debiti. Avellino, dove sei dopo la visita di cortesia? Caserta, cosa fai per andare avanti? Montegranaro, sei convinta di non aver fatto un capolavoro salvando questa stagione e non pensi ai guai della prossima? Roma, o bella Roma che spinge il Vate Bianchini a fare il predicatore da strada per avere un colloquio con il sindaco che non può avere più idee del Malagò della Grande Aniene per cercare di salvare quello che Toti ha messo su una scialuppa diretta verso Scilla e Cariddi. Queste le parole di Oscar Eleni, che poi aggiunge: diteci dove stanno bene e hanno progetti seri, salvo che in casa della retrocessa Casale Monferrato, che sembra stare meglio persino di Biella. Ecco la comica: retrocede chi aveva quasi tutto meno un campo da vera Serie A, stanno in ballo cantanti stonati, società bollite, e adesso per la gioia di chi programma, a pene di Segugio. Questo scrive Oscar Eleni, mi sembra un discreto e interessante argomento di discussione. Che dite? 800 24 00 24 è il numero verde. Ci fermiamo per il traffico, poi cominciamo con i nostri ospiti e con i nostri discorsi. Vi ricordo anche i messaggi 349-238-6666. C'è chi voleva parlare già da oggi della notizia del giorno che avete sentito anche nel giornale radio, e cioè delle dimissioni di Guardiola per la prossima stagione, già ufficializzato, così si taglia definitivamente la testa al toro il nome del nuovo allenatore, che è il vice di Guardiola, Tito Villanueva. E non ne parleremo magari, ma perché abbiamo poi tutto il weekend per parlarne, perché non è basket, perché oggi parliamo di basket, però in contumacia vorrei farvi sentire, oggi non c'è, però vorrei farvi sentire il tweet del coach. Ecco il mio pronostico per la Champions League, finale Real Madrid-Barça. Vince il Real. Mourinho nel suo secondo anno è formidabile. Chi finirà la stagione con zero titoli? Questo era il tweet di coach Dan Peterson, che come al solito con i pronostici non ci azzecca proprio mai. Palla spicchi. Ecco che torniamo con uno dei protagonisti di cui sopra citati, e torno alle righe dell'artiglio dell'orso Oscar Eleni. A Teramo il ramagli salvifico chiede a mani giunte una preghiera cittadina per salvare la società nel giorno che ha dato la salvezza sicura. Alessandro Ramagli, buon pomeriggio, grazie coach. Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a voi. Salvare questa Teramo è stato non facile. Non facile, perché quando sei piccolino e perdi un americano praticamente subito e non lo rimpiazzi praticamente mai, poi può diventare complicato. Sono stati molto bravi ragazzi a stare insieme, a coalizzarsi, a tirare fuori il meglio di loro stessi, e anche qualcuno di loro a fare probabilmente di più di quello che ci si poteva aspettare. Dopo la salvezza in conferenza stampa non hai parlato tanto di questo, non hai parlato tanto dei 34 di Achille Polonara, ma ne parleremo noi dopo. Non hai parlato tanto dell'impresa sportiva quanto di un futuro che resta incerto. Sì, perché credo che quando lavori per una società, in una città, devi avere a cuore quanto sta accadendo, e quanto sta accadendo qua è onestamente complicato, è una strada difficile da percorrere, e se non si percorre immediatamente ho la sensazione che poi la calura estiva farà cadere tutto nel dimenticatoio, quindi è meglio secondo me prendere le cose di petto immediatamente. E ce ne sono tante di società nel nostro basket, lo sai meglio di me, che dovrebbero prendere le cose di petto. Anche oggi leggo un trafiletto, anzi per la verità è ieri, di Shevon Trautman che spiega l'addio ad Avellino dicendo: il mio contratto non è stato rispettato, non venivo pagato in tempo, gli arretrati diventavano sempre di più, mi manca lo staff tecnico di Avellino perché è stato magnifico con me. Questo è solo una notizia, solo un pretesto per parlare insieme dei tanti problemi della pallacanestro italiana. Ho citato prima le righe di Oscar Eleni, perché c'è Avellino, c'è Montegranaro, c'è Roma che è in cerca di un futuro, e forse Malagò, cioè Totti potrebbe andare avanti ancora un anno, queste le ultime notizie, però il futuro è incerto anche da quel punto di vista. Questo per dire che è un campionato pieno di incertezze, che non c'è certezza sul futuro. Sì, secondo me anche la bellezza del campionato e il fatto, la bellezza in senso ironico, e il fatto che a così tanto tempo dalla fine, c'è ancora 3-4 giornate, sia un po' già tutto stabilito e che ci siano tante partite che non hanno nessun significato, secondo me ci deve far riflettere. Cioè, questo non sono detto in conferenza stampa mercoledì sera, non sono gli ospedali, le scuole, gli asili che sono indispensabili nel tessuto sociale di una città. La pallacanestro di alto livello bisogna farla se c'è programmazione, se c'è attenzione, altrimenti è meglio non farla. Secondo me è meglio meno posti di lavoro ma sicuri, garantiti e seri, piuttosto che più posti di lavoro dove però l'incertezza deve sovrare. Sono d'accordissimo, caro coach. Parliamo invece un po' di, visto che non hai fatto in conferenza stampa, di questo ragazzo che dimostra come gli italiani, se hanno spazio, e io spero, ti dico la verità, che possa a Teramo o in un'altra squadra comunque che gli possa garantire minuti, perché adesso sarà ingolosito da sirene probabilmente sul mercato. Io spero che non si faccia ingolosire più di tanto e che Achille Polonara pensi non tanto ai quattrini o a una maglietta importante da subito, quanto al suo futuro, a diventare un giocatore. Sono d'accordo, secondo me lui è abbastanza intelligente da capirlo. Credo che chi lo circonda sia abbastanza intelligente da capire questo messaggio che hai mandato. È un'annata, secondo me, molto importante per quella nidiata di ragazzi che hanno fatto parte prima della nazionale Under 18 che io ho allenato, e poi della bella nazionale Under 20 che ci ha regalato l'argento europeo lo scorso anno, perché tanti di loro hanno avuto responsabilità importanti e quasi tutti hanno risposto presente. Credo che questo sia un segnale importante. Non interrompiamo il loro processo di crescita cercando di farli fare le cose che magari non sono ancora in grado di fare. Non c'è un modo migliore per migliorare, diceva Dule Vujosevic, se non quello di giocare, e credo che loro abbiano soltanto bisogno di giocare. Non c'è dubbio su questo. Mi aspetto, molti si aspettano invece, coach, i playoff più divertenti degli ultimi anni, almeno fino alla semifinale, perché onestamente con Siena, che sarà al canto del cigno, però una finale al meglio delle sette non vedo in questi lidi una squadra che possa batterla, però playoff divertenti sì. Sì, come accade nei momenti di grande così crisi economica, in cui 17 squadre sono onestamente troppe, però magari 6 delle 8 che entreranno dentro avranno delle ambizioni giustificate e credo che potranno fare bella figura, quindi non soltanto le tre squadre che dall'inizio dell'anno diciamo che potranno giocarsela fino alla fine, ma anche magari Pesaro, magari anche Sassari fare bella figura, quindi credo che saranno dei bei playoff. Dal punto di vista dell'incertezza del risultato, credo che saranno i più belli dell'ultimo periodo. Fino alla fine, incertezza del risultato? Io non voglio parlare bene di chi dovrò incontrare fra un paio di giorni, però Milano la sto vedendo veramente bene. Veramente sì. Bene, stanno bene fisicamente, stanno bene mentalmente, giocano bene perché giocano insieme come probabilmente non hanno fatto all'inizio del campionato, ma era anche abbastanza normale. Sì. In Italia si vuole tutto e subito, invece per riuscire ad avere un po' di equilibrio all'interno di una squadra un po' di tempo ci vuole. Milano la sto vedendo veramente molto bene, mi sembra in questo momento la squadra più in forma del campionato. Poi è vero, Siena ha degli infortuni, Cantù ha degli infortuni, ma gli infortuni fanno parte di una stagione e quindi quando arriveranno i giochi, quelli duri, mi sembra che quelli con le scarpette rosse saranno pronti quest'anno. 800 24 00 24, se volete aggiungere qualcosa. È indubbio però, coach, che l'epopea di Siena, anche per ragioni anagrafiche, insomma, oggi stiamo assistendo all'addio di Guardiola, no? I cicli finiscono in tutti gli sport, in tutte le latitudini. Mi sembra che il ciclo di questa Siena sia comunque all'epilogo, anche se resta secondo me la strafavorita numero uno per questo scudetto, per ragioni anagrafiche e per ragioni di consunzione, per ragioni sportive, mi sembra, a fine ciclo. Sì, hai fatto una considerazione secondo me molto intelligente. I cicli finiscono, soprattutto è molto bello quando finiscono bene, perché magari i giocatori vanno avanti con gli anni, perdono la loro brillantezza e quindi c'è bisogno di ricominciare, di ripartire, di ringiovanire, di trovare maggior freschezza. Sono d'accordo sul fatto che Siena sia ancora quella da battere, perché ha il know-how più importante rispetto alle contendenti. Però ti ripeto, Milano in questo momento mi sta facendo veramente una bella impressione e non mi sorprenderebbe vederli crescere ancora e magari essere, non dico la favorita, però quella che è pronta a rompere le uova nel paniere alla squadra senese. Senza niente togliere a Cantù, che continua a giocare una gran pallacanestro, ma che deve far fronte a un paio di assenze veramente molto gravi, come quella di Schermadini e anche Mitrov e Šekić soprattutto. Però credo Mitrov rientrerà, Šekić non credo lo avranno, Schermadini se lo recuperano alla fine, e queste sono delle assenze pesanti. Grazie coach. Grazie a voi. Bocca al lupo e complimenti. E complimenti. Grazie per il risultato ottenuto. È arrivato fuori orario, ma è arrivato coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, buongiorno a tutti, scusatemi il ritardo. Sei perdonato, io intanto ho già fatto sentire il tuo tweet, con i pronostici sei una favola. Barcellona, guarda, Real Madrid, guarda, hai fatto fuori anche Guardiola, che oggi si è, si è dimesso, cioè che ha detto, annunciato che... La maledizione del coach. Ma guarda, a Sport Italia, aveva perso Real per un gol e Barcellona per un gol, figo. Io pensavo, tornando a casa, rimonteranno un gol. Allora io ho detto, ragazzi, non sarò esperto di calcio, ma vi assicuro che la finale sarà Barcellona e il bacio della morte fuori 22. No, almeno tu l'hai detto una volta sola, io l'ho detto almeno 50 volte negli ultimi due mesi, quindi... Quindi vedi un po' tu. No, stavo parlando prima di uno che può cambiare nome, può cambiare magari alla pettinatura, magari farci fare anche una chirurgia plastica e cambiare volto, ma la testa è un po' difficile. Puoi diventare Ronald Testa, Meta World Peace, ma quella gomitata che ha fatto il giro del mondo è una follia. Esatto, no, ma noi stavamo facendo proprio quella partita su Sport Italia, come sai, poi è andata due supplementari, però di tutte le scorrettezze che io ho visto nella mia vita nella pallacanestro, questa veramente, e poi lui dice, è stato incidentale, casuale, cioè non intenzionale, ma uno si fa una gomitata corta, viaggia, non so, 10 centimetri, ok, va bene, ma questo qui l'ha caricato, quasi ha grattato la scapola dall'altra parte e poi ha partito con qualcosa e viaggiato questa gomitata, non so, a 50 centimetri, ok? Quindi veramente di malissima intenzione. Ma questo lui, esatto, hai detto tu, Carlo, non cambierà mai e poi mai. Lui e io ho letto i commenti, l'allenatore, i compagni, e vorremmo parlare con lui per sapere che cosa ha avuto in testa. Ma niente. E ti ha bustricato. Sì, non certo. Ha niente in testa. Okay. Non ha niente in testa. Senti, ti voglio chiedere ancora una cosa, tornando all'argomento Barcellona, Guardiola, eccetera, eccetera. Dicevo prima, oggi Guardiola ha ufficializzato le sue dimissioni per la prossima stagione. Guarda caso, come era successo a te, subentra il suo vice, Tito Villanueva. Ho pensato un po' a te in questo caso. Anche tu, no, ma anche tu. Sai, tu hai chiuso, perché sei furbo, hai chiuso dopo aver vinto tutto, per aver fatto il grande slam nell'87. Però dicevo, i cicli finiscono. Anche i grandi allenatori provano stanchezza. Lui ha detto, sono molto stanco, non ne ho più, già a ottobre ho deciso che avrei lasciato il Barcellona. È una situazione che hai vissuto in prima persona dopo un grande ciclo. Quando mi sono dimesso nell'87, innanzitutto ero molto provato, tre scudetti in fila, due Coppa Italia in fila, però ero stanco e poi non volevo che la gente dicesse Peterson fa la pubblicità, fa la televisione, è distratto, allora meglio chiudere con abbiamo vinto tutto, la gente non può dire niente, ok? Però anche allo stesso tempo, e penso anche per Guardiola sia uguale, volevo lasciare qualcosa alla società, cioè al mio successore Franco Casalini, che tu sai quanto bene voglio a Franco, che poi lui ha vinto Coppa Intercontinentale, Coppa dei Campioni, Scudetto con questo gruppo qua. Poi purtroppo per Franco il gruppo stava esaurendo proprio le pile lei, perché ha lasciato io Meneghin 37, D'Antoni 36, McAdoo 36, quindi non era una cosa molto semplice, ok, per Franco. Quindi però volevo lasciare a lui la possibilità di fare qualcosa e la società la possibilità di poter rinnovare in tempo, il che l'ha fatto. Mike ha preso la squadra 90-91, fate finale Coppa Italia, finale scudetto, cioè meglio di così non è possibile. Sì, sì. Grazie coach, sentiamo ciao venerdì. Ragazzi, ciao. Grazie ancora. Ciao coach, ciao, ciao. Un abbraccio. Palla spicchi. Torniamo con un ascoltatore, 800-24-0024, nella nostra piazza virtuale per parlare di basket il venerdì pomeriggio. Davide da Pesaro. Signor Genta, buongiorno. A lei. Dica. Finalmente dopo 30 anni una trasmissione sul basket come si deve. Sì, dopo 30 anni, ma noi siamo qua già da qualche stagione. Sì, no, lo so, vabbè, io vi ascolto, però voglio dire, io ho aspettato 30 anni perché finora si vedeva solo calcio. E sono nato, diciamo così, la mia passione per il basket con le partite alle 2 di notte commentate da Gio Giordani. Ricordo quindi... bene, ricordo bene quell'epoca. Ne parliamo spesso, ecco, anche con Coach Peterson. Particolare. Sì. No, io volevo solo fare un appunto perché legato lo sport, i problemi dello sport di cui voi tanto parlate sono sicuramente, l'avete già detto, legati alla società, voglio dire, alla crisi che viviamo. E quindi certe persone che si comportano in un certo modo con affidabilità, come nello sport, nel basket in particolare, Walter Scavolini, gli allievi, eccetera, cioè le persone che mantengono la parola data vanno tenute come delle reliquie, diciamo così. Sono d'accordo. Perché non ce ne sono più. Ecco perché tutto non funziona, cioè si vive dell'effimero. In passato vedendo sì, però, sempre la Davide, squadra, però non è scritto in nessuna tavola divina della legge che un campionato debba essere fatto da 18 squadre come avremo l'anno scorso, per poi passare a 16, per poi passare a chissà quante, eccetera eccetera. Non è scritto da nessuna parte. La mia idea è che chi ha le carte in ordine può giocare un campionato professionistico di massimo livello, gli altri meno. Abbiamo solo 5, giochiamolo con 5. Sì. Bisogna fare con quello che si ha, tanto c'è poco da fare. Cioè, sì. No, ma sono d'accordo. Non c'è bisogno di fare la spending review. A casa si fa veloce la spending review, si fa quel che si può. Senta, ma dalle sue parti lì a Pesaro, dopo questa sconfitta con Siena, ma partita vera, giocata fino all'ultimo respiro, una partita di cui Dal Monte ha giustamente detto ci abbiamo provato, atteggiamento giusto, non deve lasciare tracce questa sconfitta. Io continuo a dire, poi i pronostici non li prendo mai, quindi voi di Pesaro fate pure gli scongiuri che volete, continuo a dire che Pesaro sarà per tutte una brutta cliente nei playoff. Ma è Pesaro, e la squadra rispecchia il carattere della nostra gente, cioè siamo capaci di esaltarci al massimo, è l'esatto contrario. E le nostre squadre non sono mai, difficilmente hanno giocato di squadra, sono sempre nate così. A noi piace lo spettacolo, magari perdiamo, e quindi non siamo concreti come Cantù. Vi piace il talento, volete le scintille del talento fin dai tempi di Kicianovic. Esatto. E quello che è chiaro, se si perde sempre non va bene. No. Volevo fare solo un piccolo appunto, siccome molte volte parlate di Siena, in merito alla sua partecipazione all'Eurolega. Sì. Beh, mi ricordo che la Scavolini, alla sua prima partecipazione, ma non è che voglio spezzare una lancia per due persone di parte, riuscì ad andare alle Final Four. Io andai con la mia famiglia a Paris-Bercy giustamente ha perso tutte e due le partite, per carità, però non ha fallito perché Siena però... Davide. Continuate a parlare sopra. Lo so, però tenga conto di una cosa: quella Scavolini, Darren Day e Darwin Cook, che erano uno squadrone a cui lei si riferisce, insomma, viveva in un ambiente, in un contesto europeo in cui non dico che avesse gli stessi soldi del Barcellona o del Real Madrid, però comunque era un club che poteva anche dal punto di vista del budget mettersi al pari degli altri. Adesso ho paura che ci sia un grande divario tra anche economico, questo non voglio fare i giochi di Siena e continuo a pensare che si debba giocare a pallacanestro e non presentando in campo l'estratto conto, però bisogna ammettere che c'è un grande divario in termini di potenza economica tra anche la nostra Siena e chi alle Final Four poi va, perché questo è giusto non dimenticarlo, come è giusto non dimenticare di andare al ristorante con Gianmaria Vacirca, che chissà dove ci porta il nostro chef questa settimana. Basket Chef. Riassunto delle puntate precedenti, anzi no, il meglio di Basket Chef, no, è troppo referenziale così. Facciamo allora il meglio delle città, delle squadre del campionato italiano. Ok, è andata, ma non è l'ultima puntata e allora smezziamo in ordine di classifica. Siena, prima in campionato, come sempre. Chiediamo del ciaccino con un bicchiere di Nobile di Montepulciano. Cantù, seconda. Insieme a Bruno Arrigoni ci rivolgiamo allo chef Andrea Trinchieri per un menù a sorpresa. Milano, terza, andiamo sul sicuro, risotto con l'ossobuco. Troppo facile? Troppo buono. Pesaro, quarta, un vino di Mancini, magari col pino nero, che spesso accompagnava le mie notti marchigiane. Molto lunghe. Sassari, quinta, andiamo da Tony, crostini con i ricci e la pizza verde. Magica. Oppure una aragosta alla catalana ad Alghero. Bologna, sesta, ci mangeremo tutto, dall'antipasto al dolce, ma non si può. Carrello dei Bolliti, al quale appartengo per altre vicende, memorabile. Venezia, settima, le sarde in Saor, con uvette e pinoli che metterei ovunque, dalla pasta ai dolci. Varese, ottava, la buona compagnia di vescovi alla bottega e un vino della Valtellina. Che abbuffata, ragazzi, vi aspetto per la prossima, intanto mettetevi a dieta. E allora mamma, butta la pasta! Avete preso nota? Credo di sì, anche questa volta. Molti sanno che è mio concittadino e mio amico di lunga data, quindi faccio un po' fatica, insomma, sono parte in causa e sono anche tifoso, però devo fare i complimenti ad Attilio Caia, mi tocca. Ciao Attilio! Ciao Carlo, grazie, buon pomeriggio a tutti. D'altra parte carta canta, o no? Ma devo dire 12 vittorie. Sono molto contento perché abbiamo fatto in 25 partite un grande lavoro. 50% di vittorie, considerato che non abbiamo fatto grandi investimenti nel senso di operazioni di grandi entrate, abbiamo solo spostato alcune pedine, sono stati molto bravi in società, Portaluppi e Zani, abbiamo fatto delle ottime scelte assieme e quindi siamo riusciti a dare un assetto alla squadra molto positivo. E abbiamo fatto chiuso il cerchio con questi risultati finali. Mi sembra che il cerchio comunque te l'abbia chiuso un giocatore, perché già un'altra volta ne parlavamo in questi lidi, avevi già costruito un grande capolavoro difensivo. Tu mi dicevi forse la cosa più grande che ho costruito in così poco tempo nella mia carriera, difendevate già benissimo, vi mancava un giocatore che facesse canestro e Jason Rich ha chiuso il cerchio. Sì, è stato proprio questo, perché nel mese di dicembre noi abbiamo perso partite veramente incredibili. Mi ricordo ad Avellino 64-62, dove tenere Avellino del mese di dicembre 64 punti in casa era un record, uguale dicasi a Treviso contro Benetton, a Treviso contro Venezia, in casa con Casale 60 pari. Facciamo tutto bene, poi ci mancava un po' di esperienza, un po' di personalità, perché abbiamo giocato con quel periodo due mesi con due rookie, Roderick dell'88, un rookie per la 1, Lighty 88, un rookie per la 2, è bastato avere un giocatore con un po' più di esperienza che potesse darci quella sicurezza nei momenti chiave della partita, quella personalità, ecco, soprattutto abbiamo avuto grandi benefici dalla sua personalità più che dalla sua tecnica, perché infatti anche Lighty è rimasto, non è che Lighty è cambiato il suo campionato, però c'era un giocatore sicuro, ecco, il giocatore sicuro era Rich, e questo nei momenti importanti, quando c'è la palla che conta, sapere uno certo, che fa la cosa giusta indipendentemente dal canestro è una cosa molto importante. L'altro giorno credo che in conferenza stampa ti abbiano chiesto se hai un rammarico per i playoff, visto che avete un ritmo da playoff, tu cosa hai risposto? No, io ho risposto di no, perché io ho risposto che abbia fatto bene, meglio di così non potevamo fare. Tu hai risposto: il problema non è mio, ma di chi in questi anni mi ha chiamato in corsa. Esatto, quando ho iniziato la stagione, che no, se no passa il concetto, il messaggio che io ho fatto sempre bene quando sono arrivato in corsa, da quest'annata, due anni fa a Cremona, a Milano che arrivavamo addirittura in semifinale l'Eurolega, a Roseto, però io quando sono partito, ho iniziato la stagione, ho sempre fatto il playoff e quindi e non è che allenavo sempre delle buone squadre, non ho mai giocato squadre che poi in quell'anno primo o dopo vincessero lo scudetto, quindi questo è un altro motivo importante, quindi ho detto, non è un problema mio perché io ormai ho un'età e una onestà intellettuale tale da sapere quando faccio le cose bene e quando faccio le cose magari diversamente. Attilio, un'ultima cosa, Cremona è iscritta, ma mi pare ufficialmente, no? All'elenco delle squadre che comunque hanno un futuro incerto. Ma sì, ma è un incertino, qualche nuvolina, secondo me, niente di non nuvoloni neri e pericolosi, perché c'è una possibilità che qualche sponsorizzazione, qualche imprenditore qua possa entrare a Triboldi, che è il presidente storico di Cremona, che a inizio anno, a luglio, a bocce in movimento ha deciso di uscire, gli altri tre soci sono rimasti loro per fare fede agli impegni di quest'anno, però venendo a mancare il 60%, insomma, per un anno si è gestito, per l'anno dopo bisognava trovare qualcuno, qualche contributo che ci potesse essere, e l'opzione B è che dal di fuori, dalla provincia di Brescia, sarebbero individuati questi due soci che sarebbero disposti con questa percentuale a entrare e dare una mano, però sposterebbero la squadra a Montichiari, e quindi voglio dire c'è questa doppia possibilità, per quello che dicevo non è un futuro nerissimo e scuro, però insomma è un futuro dove nell'arco di 20 giorni saprà qualcosa, dato qui c'è una grande serietà di questa società, che onestamente in momenti così di quello che si sente in giro, qui c'è una puntualità precisa, non c'è una lira, un euro diversa da quella che è promessa, oppure si promette più di quello che si ha. Questa è una grande serietà, ha fatto sì che ci siano molta gente interessata a dare una mano, perché sono la serietà degli attuali soci. È garanzia. Grazie Attilio, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento. Grazie ad Attilio Caia, che non farà playoff, ma i numeri sono lì da leggere. Palla spicchi. Westbrook on the drive, blocked by Bynum. Bynum's third in the NBA in shot blocking. Artest drives and finishes. And the Laker crowd fired up. And a shot as Harden goes down. And World Peace elbowed him. Oh no, let's take a peek. Oh, that's disgraceful. That's not only ejection, that's going to be a suspension, and should be. Questo è il racconto sonoro di quel capolavoro di stupidità di Meta World Peace, o Ron Artest, come diavolo voglia farsi chiamare, gomitata ad Harden la settimana scorsa. 7 giornate di squalifica che mi sembrano onestamente pochine, e queste dichiarazioni dopo la comunicazione della squalifica. Allora, Meta World Peace dice: forse ci incontreremo di nuovo ai playoff, quindi non ho voluto chiamarlo direttamente, ho saputo tramite una terza persona che ho contattato che sta bene, voglio rimanere competitivo. Quando ho rivisto il gesto ho capito che è stato davvero una gomitata brutale, ha detto, dovrei dire quello che mi passa per la testa, ma adesso non ho voglia di trovare alcuna scusante, anche perché sinceramente mi sembra anche difficile trovarne qualcuna, caro Meta World Peace. Non è il tempo delle scuse e non voglio parlare delle giornate di squalifica, se no dovrebbe dire che comunque sono poche. Comunque, nel momento della gomitata ero emozionato per la giocata appena fatta, ma ero emozionato in una maniera sbagliata. Sicuramente non volevo colpirlo, no, voleva colpirlo, e come? Questo è il modo migliore in cui riesco a spiegare cos'è successo. Andrea, provincia di Como, buonasera. Sì, buonasera. Io non sono un grande intenditore di basket, ma chiamavo proprio per questo episodio. Io sono un appassionato di sport, sono rimasto proprio esterefatto da quella gomitata, ma io altro che 7 giornate, ma lui deve saltare un anno, ma quella roba lì non si fa. Cioè, io poi ho visto tutta l'immagine su YouTube, che invito ad andare a vedere, sì. Sembra un pazzo fuori di testa, si batte le mani sul petto anche poco dopo. Il problema vero è che non è che sembra. È fuori di testa. Ma uno così ha fermato quello lì. Tentato omicidio, adesso non voglio farla grossa. Tentato omicidio, tanto aggressione, facciamo aggressione. Aggressione ci sto, ecco. No, ho esagerato, lo so, ma fa brutto veramente. Guardi, io. Sì. Va bene, niente, volevo solo sfogarlo perché veramente una vergogna è stata. Però. Sì. Sì, ha fatto bene, è cascato nel punto giusto, caro Andrea. Anche perché c'è Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Stiamo parlando dell'impresa di, come si chiama, Metal World Peace, Ron Artest, o magari in un altro modo, che può cambiare anche 10 volte il nome, ma la testa mai, eh? Sì, la testa mai, ma io sono sicuro, anche perché lo sappiamo che è un problema di tipo proprio specificamente medico, quindi andrebbe valutato, secondo me, in quella maniera prima che a livello disciplinare o valoriale. Anche perché poi diventa difficile giustificare, cioè chi dice 7 giornate di squalifica per quello che ha fatto, forse non sono neanche una sanzione appropriata. Guarda, il concetto di sanzione appropriata, per come lo leggiamo noi, differisce radicalmente dall'idea americana. Certo che 67 per un contatto con uno spettatore e 7 per una gomitata del genere in campo, per noi stona, è una delle 10 cose che stona. Però al di là di questo è un caso ulteriormente speciale, perché qui manca completamente il movente. O sicuro, lo spieghi da un punto di vista medico, sicuro, oppure non lo spieghi, sicuro. E quindi è anche per quello che è difficile valutarlo. Raptus di follia, come è capitato già a questo giocatore in passato, come capiterà, ne sono ragionevolmente certo, anche in futuro. Intanto abbiamo i playoff negli Stati Uniti. Chicago e San Antonio 50-16 chiudono a braccetto questa stagione. E attenzione, ne abbiamo già parlato, per le stagioni corte, adesso sono vecchietti, allora lo erano di meno perché c'era l'ammiraglio Robinson, per il resto è una squadra molto fresca con un Tim Duncan stellare e quell'anno MVP. Però, insomma, è statistica, l'altra volta hanno vinto loro, i San Antonio Spurs. L'altra volta hanno vinto loro, indipendentemente che vincano o non vincano. L'anno scorso 62 vittorie al primo posto, quest'anno 50 vittorie al primo posto, 3 strisce vive almeno di 10 partite, 2 da 11, 1 da 10, questi sono numeri che sono incredibili per una squadra che ha una stella in declino, comunque un Ginobili da 34 anni che è stato fuori 30 partite e che da 15 anni continua a macinare numeri di questo tipo, comunque vada a finire, è un'impresa incredibile. Togli una curiosità, chi è il tuo personale MVP della stagione regolare?